Garibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. Bentornati, ben ritrovati, nuova puntata di Zibaldone qui su Radio Contrabanda. Quest'oggi, insomma, torna uno specialone, non vi dico quale. Non ho potuto piangere mai, nemmeno da bambino. Non ho potuto piangere se un nodo di tristezza in fondo al cuore le lacrime invocava. Serena sentivo una voce che mi diceva così: lo sai, gli uomini non piangono perché le lacrime non servono. La vita è una dura partita, i sogni sono sogni e nulla più. La notte può sembrare infinita, ma il sole di domani nel cielo tornerò, perciò un uomo non può piangere, neppur se a volte lo feriscono. Tradito senza amore può vincere il dolore, se ricorderà che gli uomini non piangono e non piangerà. Tradito senza amore può vincere il dolore, se ricorderà che gli uomini non piangono e non piangerà. Ma perché cominciamo con un brano del 1959, Gli uomini non piangono, di Gino Latilla? Vabbè, lo faccio dire subito al nostro Banzo, più ergonomico che mai. Banzo, buon pomeriggio e bentornato a Zibaldone. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. In realtà c'è pochissimo mistero, perché ci ha ascoltato la settimana scorsa, perché lo avevamo detto esplicitamente, non lo facciamo quasi mai, però la settimana scorsa sì che lo avevamo fatto, avevamo annunciato la puntata di questo venerdì, perché si sta per abbattere nuovamente sull'Italia lo tsunami sanremese. Non lo vorrei definire una calamità, però comunque è un evento che travolge il paese in ogni suo aspetto, quindi tsunami, ecco, forse è un connotato un po' forte, però può andare. E quindi anche noi, nel nostro piccolo e dalla nostra posizione alquanto defilata, cerchiamo di dire qualcosa su questo argomento, magari evitando certe banalità o certe cose risapute. Quindi per il quarto anno torniamo con quella che ormai è una delle nostre molteplici serie, cioè Respinti all'Ariston, che è, come si può intuire se è la prima volta che ne sentite parlare, si tratta di una selezione di brani che hanno cercato di partecipare a Sanremo, ma non ce l'hanno fatta. Gli esclusi. Un po' personificando i brani. Gli esclusi. Gli esclusi. eccellenti. Vabbè, a volte sì, invece, insomma, però insomma, andate a cercarvi anche i tre precedenti volumi di questa Respinti all'Ariston, sempre attorno al mese di febbraio 2023, 2024, 2025. Siamo al quarto volume. E Banzo, rapidamente, perché vogliamo mandare in onda tanti brani, il tempo stringe sempre. Gino Latilla, due parole su di lui e su questa canzone. Beh sì, ecco, dicevi giustamente, a volte esclusi eccellenti, a volte no, perché ci sono in alcuni casi degli aneddoti veramente roboanti, ma non è questo il caso, è semplicemente una canzone che rimase esclusa e poi bisogna considerare che non penso ci sia stato uno strascico di polemiche incredibili, perché in quel 1959 Gino Latilla arriva comunque secondo a Sanremo con la canzone Io sono il vento, era in duo, e quindi insomma, per una canzone che non ce la fa, un'altra quasi vince. Però di questo brano, questo brano ha comunque caratteristiche interessanti, come avete sentito quella sull'inizio del ritornello, un delizioso momento con solo voce e contrabbasso che mi ha conquistato, e poi un team di autori di tutto rispetto, Fred Buscaglione e il paroliere Leo Chiosso. E quindi sì, un team che nella carriera di Buscaglione, cioè Leo Chiosso ha accompagnato Buscaglione, e un team che appunto con la produzione solista di Buscaglione ha raggiunto autentici trionfi, però ebbero un ruolo anche nel rilanciare la carriera di Latilla nel 1955 con un brano come Chumbala Bay, che ha caratteristiche quasi proto-punk con le dovute distanze, perché Latilla è un po' impantanato nell'immagine di cantante romantico. Questa canzone, sì, insomma, si è capito di cosa parla, è una riflessione sul tema degli uomini duri, però è sprovvisto, a differenza di molti brani di Buscaglione, di elementi ironici. Buscaglione, oltre a firmare il brano, suona la tromba e l'arrangiamento è a cura dell'orchestra di Cinico Angelini. Poi sì. Buscaglione appunto non riesce a inciderla, non so se avesse intenzione di inciderla, non sarebbe stato strano, ma purtroppo questo eventuale progetto fu stroncato dalla sua prematura morte il 3 febbraio 1960 in un incidente stradale. Eh sì, ricordiamo che Latilla aveva comunque vinto un festival nel 54 con Tutte le mamme, abbinato a Giorgio Consolini, e poi si era sempre piazzato ai primi posti con brani classici come Vecchio Scarpone o Casetta in Canada. Andiamo con la seconda canzone, una cosa molto particolare, siamo al 66. Es sagten alle, ich soll dich nicht lieben, und du bist niemals der Richtige für mich. Es sagten alle, du hast so viel Fehler, jedoch ich weiß, nie verlasse ich dich. Ich sage no, zu den anderen, zu allen, my darling. Ich sage ja, nur zu dir, sag ich ja. Es sagten alle, ich soll doch noch warten, bis mal ein anderer käme zu mir. Ich hab gelacht, denn ich kenn deine Küsse. Ich werde niemals mehr fortgehen von dir. Ich sage no, zu den anderen, zu allen, my darling. Ich sage ja, ich sage ja, nur zu dir sag ich ja. Ich sage no, zu den anderen, zu allen, my darling. Ich sage è beh, una canzone in tedesco, avete capito? Dici, cosa c'entrerà una canzone in tedesco con il Festival di Sanremo? Era tra l'altro 65, no, 66, errore mio. Is sage no, sia, ma ora no sarebbe stato il titolo italiano. La voce era quella di Elke Sommer, ma per questo, insomma, ce lo spiega meglio il nostro Fausto De Salvi, a cui do anche il bentornato a Zibaldone. Fausto, raccontaci un po' la vicenda di questa canzone, che è particolare. Sì, ciao Steven e buon pomeriggio a tutti. È una storia un po' particolare, ci vorrebbe uno di quei podcast true crime che piacciono tanto al Banzo, ma non abbiamo ovviamente il tempo, non abbiamo un'ora solo per questo brano, quindi vado veloce. Elke Sommer nel 65 è un'attrice ormai affermata, l'anno prima ha recitato con Peter Sellers nel secondo capitolo della saga della Pantera Rosa e quindi è conosciuta un po' in tutto il mondo, è apparsa su Playboy e quindi questo ovviamente aiuta molto la sua popolarità. E quindi nessuno si stupisce quando presenta un brano per il Festival di Sanremo del 65. Questa Ma ora no, scritta da due autori genovesi che poi collaboreranno anche con Dan Drey, Newt Ross, tutta la scena della Città della Lanterna. Quindi autori affermati, sembra quasi certo che andrà a Sanremo e invece il brano viene rifiutato. E fin qui uno potrebbe dire, vabbè, è capitato tante volte. Esatto. La cosa particolare è che lei in quello stesso anno partecipa a un film tedesco, non ti dico il titolo originale perché il mio tedesco è terribile, quindi la traduzione esatta è L'hotel degli ospiti morti, letteralmente, e quindi questo svela anche molto la trama. È un giallo ambientato in un albergo dove i vari ospiti muoiono uno dopo l'altro misteriosamente e lei fa la parte di se stessa che partecipa a un festival della canzone, perché questo film tedesco è ambientato a Sanremo. Quindi la mia supposizione, quindi andiamo dal discorso del true crime, è che banalmente i produttori del film biecamente volessero sfruttare la presenza della Sommer a Sanremo per lanciare il film, quindi ambientandolo all'interno del festival, facendo un po' di riprese, peccato che appunto il brano non viene ammesso, e il film esce soltanto in Germania, praticamente in Italia è completamente sconosciuto, e quindi la canzone in italiano non viene mai pubblicata. Curiosamente ne esiste però una versione spagnola, in Spagna è stata pubblicata come Ahora No, quindi ovviamente Ahora No diventa Ahora No, ma perché in Spagna, perché questa è una curiosità interessante, la Sommer era molto popolare perché nel 62 era stata la prima attrice a comparire in bikini in un film spagnolo. Quello di Juan Bosch, molto... Bahia de Palma, sì. Esatto. Sì, sì. E quindi ci dice molto di cos'era la censura in epoca franchista. Andiamo a, grazie Fausto, ad ascoltarci un altro brano, andiamo avanti, siamo alla fine degli anni 60 e 69, con uno dei grandi cantautori italiani, parliamo di Giorgio Gaber. Che noia qui al bar, che noia la sera a mettersi qui al bar, che noia qui al bar, come entro ci trovo il Maffini che è sempre depresso, fra sospiro, un lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità, l'infelicità. Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante, dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera vedersi qui al bar, che noia qui al bar. Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera, non c'è Santi vin qui ogni sera, se ci paro non risponderà, non risponderà. Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito sei volte al mese, è riserva però in Serie A. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera vedersi qui al bar, che noia qui al bar. In saletta i Rasterramino, puntuali soli dalle 9, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noia la sera qui al bar, la la sera più al bar. Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare non mi molla, continuo a fissare finché crollo e non prendo un caffè. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico, il più simpatico, non è di grande compagnia. Flick, po, pu, patata, ma è più simpatico che ci sia. Che noi a quel bar, che noi alla sera veglia si che al bar. Era il 69, lo ricordavo prima, Giorgio Gaber, il Riccardo. Banzo, l'ultimo tentativo di Gaber di partecipare a Sanremo. Siamo tra l'altro in un momento particolare, poco, insomma, 2 anni dopo, bene o male, quasi dalla morte di Tenco. Sì, esatto, un evento che evidentemente aveva segnato Gaber in modo molto forte e comunque anche questo 1969 è un po' un momento di svolta, forse lo diventa a posteriori, non lo sappiamo, la carriera di Gaber, perché appunto questo dal trauma del suicidio di Tenco fino al 1969 circa, Gaber mantiene questo doppio binario con la parte più giocosa, più ironica, anche canzoni romantiche, apparizioni in TV, quella che con il linguaggio più moderno diremmo nazional popolare, anche se non so se è un termine completamente adeguato al contesto, mentre dall'altra stava scrivendo brani che già stavano gettando le basi del teatro canzone dall'altra parte, e il teatro canzone in effetti è una modalità espressiva che Gaber inaugurerà a partire dal 1970, quindi questa Il Riccardo si potrebbe considerare, qui non so se è un eccesso di interpretazione, un canto del cigno di una modalità di espressione gaberiana, e per me è un peccato perché è anche una delle sue canzoni che amo di più, e, diciamo che riprende un po' le atmosfere e gli ambienti di molte canzoni milanesi del Gaber degli anni 60, con la collaborazione di Umberto Simonetta. Questo è l'ultimo brano che Simonetta scrive per Gaber, quindi dalla ballata del Cerutti in avanti c'è questo sottobosco milanese un po' improbabile, anche se l'atmosfera è meno scoppiettante di quella di Trani a Gogò, per citare un brano di qualche anno prima. Ma poi, come dicevamo, Gaber sceglie come modalità espressiva principale quella del teatro canzone, il sodalizio con Lupolini e così via, e brani come Riccardo finiranno nei suoi concerti solo come bis per chitarra e voce. Eh sì, e noi entriamo già negli anni 70, visto che li nominavamo, con un altro rifiuto direi eccellente per quel momento e una canzone che ebbe molto successo, Singapore. Stiamo parlando dei Nuovi Angeli, eccola qui. Singapore, vado a Singapore, benedette care signore. Vado a Singapore, benedette care signore. Tra domani chiudo troviamo una canzone che, come in molti altri casi che abbiamo incontrato gli anni scorsi, è rifiutata a Sanremo per una ragione e l'altra, e poi diventa campione di vendite nella stagione, insomma nei mesi successivi, soprattutto in estate. È vero o no, Fausto, con questo brano dei Nuovi Angeli, Singapore? Sì, fra l'altro per i Nuovi Angeli si ripete quanto è successo l'anno prima, nel 71. Ne avevamo parlato in qualche volume fa, era stata esclusa Donna Felicità, che fu il loro più grande successo. Nel 72 ci riprovano, presentano appunto Singapore, tra l'altro sempre scritta da Roberto Vecchioni, da Renato Pareti, quindi nella loro, naturalmente, autori che all'epoca stavano scrivendo Lucia San Siro, in contemporanea facevano canzoncine simpatiche come queste, che giocavano sull'amore, sul sesso, con riferimenti geografici un po' assurdi, perché naturalmente il Fiume Giallo è in Cina e non certo a Singapore, quindi qui è veramente la geografia abbastanza ipotetica. E presentano il brano a Sanremo, sanno che è un brano forte, peccato che all'epoca le commissioni avevano questo potere di rifiutare, magari accettare il gruppo, ma di rifiutare il brano. Quindi dicono: guarda, voi andate bene, però non fate Singapore, perché è anche un po' licenzioso come testo, fate, e gli propongono un altro brano, Un Viaggio in Inghilterra, scritto da Ricky Gianco, e loro torto collo accettano. Ovviamente arrivano penso ultimo penultimo, la prima sera vengono eliminati, il brano non ha nessun successo, mentre Singapore va al disco per l'estate e vende credo 300.000 copie, forse anche più, poi genera moltissime cover in giro per il mondo. Quindi è una storia che si ripete per l'ennesima volta. Eh sì, tra l'altro, insomma, poi con anche una versione censurata, che è quella che abbiamo appena sentita, dove no, i versi "io non ce la faccio a guardarvi, mi si spezza il cuore", realmente l'originale diceva "sono troppi campi da arare per un solo trattore". I Nuovi Angeli poi, insomma, a Sanremo non ci andranno più anche dopo la reunion di fine anni 80, Vecchioni invece sì, tante volte. L'anno successivo arrivò settimo con Una Meravigliosa, L'Uomo che si gioca il cielo a dadi, e poi insomma tre decenni più tardi, nel 2011, come sappiamo, vincerà Sanremo. Andiamo avanti e andiamo avanti anche negli anni con questa Tutto è musica. Musica, tutto è musica. Tutto è musica, tutto è musica. Beep. qui siamo su sonorità un po' più dance, infatti era il 1979 con questa Tutto è musica di Anna Rusticano, che forse a molti questo nome non dirà granché, almeno in Italia, perché in Cecoslovacchia, l'allora Cecoslovacchia sì, ma questo forse Fausto lo lasciamo per il finale, andiamo prima a raccontare un po' dell'esclusione di questo brano. Ma sì, siamo nel 79, dopo l'anno prima in cui c'erano state le performance di Rino Gaetano, i Matti Bazar che avevano vinto, Anna Oxa conciata come una punk londinese, permettimi la citazione, ovviamente sembrava che dopo gli anni bui di metà anni 70 il festival si riprendesse. Invece c'è questo cast un po' eterogeneo, ci sono bellissime sorprese, c'è per dire Zoccarella che arriva secondo, che probabilmente avrebbe meritato di vincere, però diciamo che il brano di Mino Verniaghi che vince non se lo ricorda nessuno, forse neanche lui. Quindi è questo passo falso, e però quindi ci sono molti brani esclusi che paradossalmente vendono appunto di più di quelli che erano in gara. È il caso di Anna Rusticano, che ha come team di autori Shel Shapiro e Andrea Lovecchio, quindi grossi nomi. Tra l'altro qui Shel Shapiro cita, oltre che la chitarra, la George Harrison come sonorità, cita il suo arrangiamento che aveva fatto per Rumore di Raffaella Carrà qualche tempo prima, quindi appunto questa disco music in salsa italiana. Ed è un pezzo che quindi ha un buon successo in radio. La Rusticano ci proverà ancora a dare a Sanremo, credo altre due volte, poi non ci riesce, e allora nell'83 va al Festival di Praga, lo vince il Festival di Praga, e da lì inizia una seconda carriera in Cecoslovacchia, dove pubblica, mi pare, due album in cui diventa cantautrice, i brani li scrive lei, e cambia il suo cognome in Rusticano con la K, e tuttora credo che sia più ricordata là che dalle nostre parti. Fra l'altro purtroppo è venuta a mancare, mi pare, pochi mesi fa. Sì. Andiamo avanti, entriamo negli anni 80 con questi Ragazzi dello Spazio. Nell'ultimo war show. show. Ragazzi dello spazio, loro si chiamano Gas Nevada, probabilmente molti non li conosceranno, era l'82 con questo tentativo di andare a Sanremo, Banzo. Beh, i Gas Nevada sono uno dei gruppi mitici di quel periodo storico dell'underground italiano e francamente non sapevo avessero cercato di partecipare a Sanremo. È una storia incredibile con qualche nome importante, uno che è lecito attendersi, che è quello di Oderso Rubini, che produce il brano, sì, storica figura della Bologna di quegli anni, e l'altro meno facile da legare ai Gas Nevada, però facile da legare a Sanremo, è quello di Pippo Baudo, sì, che nel 1982 all'interno di Domenica In, altro contesto che non associerei ai Gas Nevada, conduce una specie di talent show ante litteram dove si sfidano due artisti, due cantanti, e chi vince sostanzialmente viene ammesso alle nuove proposte di Sanremo. Non so contro chi si sfidassero i Gas Nevada, ma non ce la fanno, ma da quel contesto pre-talent esce per esempio Mario Castelnuovo. Sì, insomma, la storia, la parabola di Gas Nevada, che nella formazione originale dura circa 10-11 anni, è caratterizzata da una grande mutevolezza. Si parte dal post-punk, si arriva alla wave, in seguito declineranno tornando alla lingua inglese verso la Italo Disco, quindi ci sta anche tentare un approccio sanremese che non arriva a destinazione, anche l'eccesso di citazioni retrofuturiste che non sono molto sanremesi, ma che rimandano molto al contesto di quegli anni. Per esempio, un grande amico di Zibaldone come Johnson Righeira ne faceva incetta in quel periodo in brani mitici. E comunque, per chi volesse approfondire la parabola dei Gas Nevada, che è molto interessante, come accennavo, è uscito da poco un documentario di Lisa Bosi intitolato Going Underground, esattamente lo scorso anno, quindi se vi interessa cercatevelo. A proposito di citazioni, avete sentito forse apparire nel loro testo i nomi di Jerry Lewis, le gemelle Kessler, ma anche i cartoni giapponesi, no? Con il Dottor Zero da Fantaman. E adesso facciamo un bel salto di quasi 20 anni, arriviamo al 99 con questa Veramente di Mario Venuti, eccola qui. Sembrava impossibile potesse capitarmi, e invece mi è successo veramente, veramente, veramente, veramente. Facevo finta di fregarmene di te per rendermi più interessante, ma adesso sono solo veramente, veramente, veramente. Il cielo grida il tuo nome, la primavera mi risveglierà come un fiore, come un fiore. Imparare a mentire un po' più spesso, se mi volessi bene veramente, perché le maschere che porti a volte sono più sincere, riflettono l'essenza, adesso stai fingendo. Veramente, veramente, veramente, veramente, veramente, veramente. Primavera mi risveglierà come un fiore. Fammi vivere una nuova illusione, fammi vivere una nuova stagione, fammi vivere una nuova illusione, fammi vivere veramente, veramente. We'll be right back. primavera mi risveglierà come un fiore. Sembrava impossibile potesse capitarmi, invece mi è successo veramente. Facevo finta di fregarmene di te per rendermi più interessante, ma adesso sono solo veramente. Beh, ma anche qui proprio una gran cappella, Fausto, del team di Sanremo, del festival, perché questa canzone, esclusa nel 99, poi pubblicata, adesso magari ce la racconti, qualche anno dopo, solo nel 2003, fu in realtà un grandissimo successo per Mario Venuti. Sì, veramente, appunto, viene presentata alla commissione nel 99, quando Venuti ha quasi 20 anni di carriera, perché lui ha iniziato nell'80, giovanissimo, con i De Novo, storica band New Wave di Catania, con cui Ali è stato a Sanremo nell'88 con nessun risultato, credo che siano stati eliminati, comunque non si classificarono. E poi a Sanremo aveva scritto Amore di Plastica, il brano che aveva lanciato la carriera di Carmen Consoli, quindi vuole lanciare anche la sua carriera di cantautore, propone questa veramente, che è un pezzo frizzante, con una melodia molto immediata, molto molto radiofonico. La commissione glielo boccia soprattutto perché c'è questa ripetizione ossessiva della parola veramente, che detto fra noi però è la caratteristica del pezzo, cioè la cosa che lo rende memorabile. Vabbè, Venuti pensa, dico, vabbè, lo pubblicherò nell'album, pace. Peccato che purtroppo, qui andiamo nelle cose un po' più tristi, il suo discografico, quello della Cyclo Pro Records, Francesco Birlinzi, che è stato un po' il patron della scena catanese degli anni 90, quindi con grandissime collaborazioni, scopritore di talenti, purtroppo si ammala, muore all'inizio del 2000, l'etichetta chiude praticamente perché non va più avanti e il disco rimane ibernato perché era già pronto per 3-4 anni ed esce solo nel 2003, per questo che quindi veramente esce finalmente come singolo nel 2003, spopola in radio e gli consiglio di tornare di gran carriera a Sanremo l'anno dopo, nel 2004, con il brano Crudele. Eh sì, 2004, a proposito, c'è un altro escluso eccellente, vediamo se lo riconoscete, non vi dico chi è. Ascolta, ascolta qualche esempio. Forse fatta tra jazzisti e funk, super skunk. Mette d'accordo rapper e punk, super skunk. Rocchettari, sacceri, frutti misti, senatori, deputati e ministri, tutto rigorosamente sotto bank, super skunk. Superstar, super top, Sandokan, super skunk. Speedy Gonzales, Paperoga, Tarzan, super skunk. Diplomatici, affaristi, galupini, gorilla, immacolati, cherubini, tutto rigorosamente sotto banco, super skunk. Supermercato globale, a chi fa tanto bene e a chi fa tanto male, quelli malati, quelli con le tasche piene, sotto banco tutto quel che fa più bene, super skunk, super skunk, super skunk, super skunk. Wow, wow, super skunk, super skunk, super skunk, super skunk. Tutto rigorosamente sotto banca, super skunk. Leonardo, Freud, Einstein, super skunk. Cineasti, piloti, surfisti, Bill Clinton, Monica Lewinsky, tutto rigorosamente sotto banco, super skunk. Dei reality show siamo stanco, super stunk. Di chi maltratta in tren, esprit e trans, super stunk. Super stanco. Supermercato. artisti, scienziati, pacifisti. Per loro è questa la lista di tempisti. Super skunk, super skunk, super skunk. Super skunk. Io immagino che molti avranno riconosciuto la voce inconfondibile di Sir Oliver Scardi, al secolo Gaetano Scardicchio, conosciuto per essere stato il frontman dei Pittura Fresca, il gruppo veneziano attivo dalla fine degli anni 80 al 2002, che a Sanremo c'erano già stati tra l'altro nel 97 con Papa Nero. Banzo, anche in questo caso insomma un rifiuto, diciamo una respinzione, un respingimento, mettiamola così, all'Ariston, forse anche per ragioni di censura sul testo. Beh sì, ma Papa Nero è una canzone che ai suoi tempi aveva suscitato molte polemiche, ma credo che sia una delle più iconiche degli ultimi 30 anni del festival, perché ancora dentro i 30 anni ci stiamo. Beh, è una canzone, questa Super Skunk, per tornare sul pezzo, che parla di un tema molto caro a Oliver Scardi, a Sir Oliver Scardi, e Pittura Fresca e reggae in generale, cioè le droghe leggere, evidentemente. Sì, passa una prima selezione, forse anche camuffata dietro al dialetto veneziano, posso ipotizzare io, ma poi la direzione artistica mangia del festival, mangia la foglia e lo cassano così, e gli impediscono di partecipare, non giudicando forse il tema consono per il contesto sanremese, può darsi. Comunque quello del Festival 2004, Steven, è un contesto, uno scenario interessante, perché Scardi cerca di partecipare anche perché ci sono dei posti liberi, diciamo, c'è meno fila all'ingresso del solito, perché le major del disco, che all'epoca erano 5, poi ce ne sta meno perché ci sono state le solite fusioni, disertano Sanremo in rotta con la Rai e col direttore artistico che ho già menzionato, Tony Renis, però non avevo detto il nome. E addirittura ci sono anche motivazioni diverse, se vogliamo anche più nobili, come quelle di Nando Dalla Chiesa, che a causa delle amicizie con mafiosi che avevano caratterizzato il passato di Renis, lancia un controfestival di Mantova. Comunque, diciamo che la diserzione in massa delle etichette discografiche permette, diciamo, una maggiore facilità d'ingresso, e comunque il povero Oliver Scardi non riesce con questo brano, che forse avrebbe meritato, io saremmo sentito cose infinitamente peggiori, brano che uscirà nel disco Grande Bidello, lanciato dal singolo Bideo, perché Scardi è sempre stato orgogliosamente un bidello, ha continuato a fare il bidello per tutta la vita, anche negli anni in cui la musica sembrava potesse andare benissimo, e sta andando in pensione in questo 2026, sì. Credo, ho letto recentemente una sua intervista, cito a memoria, poi può darsi che mi sbagli, nella quale diceva: alla fine con la musica sono riuscito a comprarmi casa, credo a Marghera, non sarebbe strano conoscendo il personaggio. Comunque io non ho mai amato il reggae, la mia posizione sulle droghe leggere la conosci, ma per Oliver Scardi grande simpatia, è un personaggio veramente sui generis e di grande spontaneità in un mondo così artefatto. Sì. Ecco. Andiamo avanti, 2010, respinta all'Ariston anche Paola Turci con questa Danza intorno al sole. La la la la la. Amore mio, adorato amore, tienimi come un fiore dentro un vaso alla finestra perché possa rinfrescare. Poi distendimi con cura perché trovi la mia posa, rigirando ogni cosa dalla parte più preziosa. E la tristezza passerà, la tristezza lascerà posto a qualche forma di felicità. Amore mio, adorato amore, lasciamoci alle spalle tutto ciò che pesa, dai rimorsi ai sacchi della spesa. Il passato è un'espressione da capire e coniugare, ciò che è stato in fondo non si può cambiare. E la tristezza passerà, la tristezza lascerà opposto a qualche forma di felicità. Ed è così che il mondo ci trascinerà in questa danza intorno al sole che chiamiamo amore. Adesso abbracciami, il mondo ci sorprenderà con i colori e le stagioni calde, i giorni mai uguali, i temporali. Amore mio, adorato amore, insegnami ad ascoltare il grido di dolore di un uomo che muore, di un bambino in cerca di attenzione, di un paese che soffre la tragica scomparsa di valore. E la tristezza passerà, la tristezza lascerà posto a un'improvvisa felicità. Ed è così che il mondo ci trascinerà in questa danza intorno al sole che chiamiamo amore. Adesso abbracciami, il mondo ci sorprenderà con i colori e le stagioni calde, i giorni mai uguali, i temporali. In questa danza intorno al sole che chiamiamo amore, amore abbracciami. Era il 2010, dicevamo, questo respingimento di Paola Turci. Fausto, brevemente, un errore anche in questo caso di Sanremo? Sì, perché è un brano, questo Danza intorno al sole, che unisce tre cantautrici di diverse generazioni. Parliamo di Nada, di Paola Turci e di Carmen Consoli. Tutte e tre devono a Sanremo la loro notorietà, perché naturalmente vi hanno esordito giovanissime. La Nada credo avesse neanche 16 anni, vabbè. E nel 2010 riuniscono le loro forze per partecipare al festival. Nada scrive il testo, che come avete sentito ha quello spirito naif, no? Delle sue cose, delle sue, quelle che lei chiama le sue canzoncine, ecco. E la musica di Carmen Consoli, e Paola Turci è solo interprete. Il brano, come abbiamo visto, non viene ammesso, però fortunatamente, contrariamente a Venuti, trova quasi subito pubblicazione, perché esce come singolo per lanciare Giorni di Rose, che ha un album della Turci particolare, è credo il primo in cui è soltanto interprete, cioè non scrive, non è, lei è una cantautrice notoriamente, ma non scrive nessun brano. Tutti i brani del disco sono stati scritti da amiche, da colleghe della Turci, con un'attenzione concentrata sull'universo femminile e sulla sua forza. Fausto, grazie anche questa volta di essere stato con noi, ti ritroviamo presto qui a Zibaldone. Certo, alla prossima, ciao a tutti. Un abbraccio, andiamo con Roberta Giallo, esclusa varie volte dal 2018 ma anche a fine 2025 con questa Ho fatto l'amore per pietà. Eccola qui. Ho fatto l'amore per pietà e non è una bugia, non è una fantasia, io alle volte la generosità ti porta dove l'anima serenamente medita, io per dimostrarmi di poter dare, offrire il cuore e poi ancora qualcosa, qualcosa in più, umilmente ho consegnato il mio calore per migliorarmi e certamente per amare, per sentirmi più gentile, per conoscermi e capire, o forse per dimenticare. Convenzione ludica, ho sentito essermi intrinseca, io un'intenzione filantropica e salvifica che ho preservato. Da allora qui, se là fuori è sempre guerra, nella mia dimora regnano pace e senso e poi parole. scherzare e raccontare, per giocare e poi creare, per riempire una canzone. Di uno 10.000 città, vi siete persi in uno 10.000 braccia dopo chissà, perché hanno avuto bisogno di te, perché tu hai avuto bisogno di me. Ho fatto l'amore per pietà, Roberta Giallo, brano uscito recentissimamente perché è stato escluso appunto anche dell'edizione del 2025 di Sanremo, anche se era stato presentato precedentemente anche per le nuove proposte del 2018, Banzo. Sì, in totale è stato presentato 3 volte, quindi è un caso di esclusione multipla, non so quanti ne abbiamo all'attivo in 4 edizioni di respinti all'Ariston, sarebbe interessante approfondire questo discorso. Comunque Roberta Giallo l'abbiamo già trasmessa a Zibaldone, originario di Senigallia, anche se da molti anni residente a Bologna, e in effetti cita Lucio Dalla come mentore, che ha anche conosciuto, c'è cioè anche un rapporto umano. E sì, questo brano è uscito come una specie di singolo a parte, separato dall'album che aveva lanciato poco prima, intitolato Orco Ingordo, Orco con la K. E sì, il singolo è uscito il 26 dicembre. Io ti devo confessare che quando ho letto il titolo ero molto perplesso, ho letto una sua dichiarazione, la quale sembra che provenga da un'esperienza autobiografica pari pari, quindi va interpretato letteralmente. Però ecco, l'ascolto è tutt'altra cosa, perché mi sembra un brano molto ispirato, quindi forse il titolo è scelto anche appunto per la sua capacità di incuriosire e, se vuoi, anche sconcertare. Eh sì, e noi siamo davvero in chiusura di questa puntata di Zibaldone. Banzo, ci salutiamo con un brano uscito da pochissimo di Tricarico, che ha proprio detto ve lo faccio conoscere perché l'hanno escluso dall'edizione proprio di quest'anno, quella che comincerà a breve, di Sanremo 2026, si titola Sorridiamo. Sì, a me piace sempre, non è stato sempre possibile, ma mi piace chiudere i respinti all'Ariston con una canzone che non ce l'ha fatta per l'edizione dell'anno in corso, l'edizione di quest'anno, anche se non c'è ancora stata. E lo stile di Tricarico mi sembra veramente quello, è una canzone di Tricarico, non so se sia stata esclusa in quanto canzone di Tricarico o per altri motivi, però c'è quella scrittura, diciamo, meravigliosamente ingenua che lo caratterizza. Lui lo definisce una canzone, la definisce una canzone ironica di frizzante amarezza, e comunque ha un messaggio positivo perché invita a sorridere di fronte alle difficoltà della vita, quindi non mi sembra così incompatibile col buonismo sanremese, anche se Tricarico è un personaggio veramente sui generis. E quindi sì, adesso ascolteremo, come succede in questi casi, le canzoni di quest'anno e potremo valutare se davvero valeva la pena escludere Tricarico. Comunque a Sanremo c'era anche l'anno scorso in veste di ospite nella serata delle cover insieme a Gabbani, dove reinterpretava il suo più grande successo Io sono Francesco, indimenticabile, che è una canzone che ha già 26 eh sì. anni, santo cielo. Eh sì, è del 2000. Poi lui a Sanremo c'era stato comunque nel 2008 e 2011, in questa seconda occasione, cantando la bella Tre Colori, Tre Colori è il titolo della canzone, brano scritto da l'indimenticabile Fausto Mesolella. Noi ci risentiamo venerdì prossimo, grazie a tutti di esservi sintonizzati su Radio Contrabbanda e come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrico Tierno Galván, alle 17.57 diceva tutti venerdì. Comunque io la canzone di Mino Vergnaghi che vince Sanremo 79 la ricordo perfettamente, si intitolava Amare e ve la potrei cantare quasi a memoria, adesso comincio subito. Ciao Banzo, buon venerdì sera, questo è Tricarico, bye bye. Ridi, se sorridi, vivi di più. Chi vince ride, chi perde ride, chi sorride, vive di più. Sorride Franco che incontra Francesco, sorride Anna che non sente la sveglia, sorride Giovannino che si alza alle 5, sorride Sofia che si lava la faccia, un sorriso per tutti perché si sveglia presto, alla povera gente che però è intelligente e ha capito da un pezzo quanto siete bastardi. Ridiamo perché non c'è niente da ridere, ridiamo perché, perché noi siamo liberi, ridiamo perché non abbiamo paura, ridiamo perché chi ride ultimo ride. Ridiamo al mattino, ridiamo alla sera, ridiamo alla notte, ridiamo della morte, della vita e della morte. Se vinci ridi, se perdi ridi, se sorridi vivi di più. Chi vince ride, chi perde ride, chi sorride vive di più. Sorride il barbiere e sorride il regista, sorride il bidello che apre la scuola e sorride il poliziotto, sorride l'attore, il pazzo, il politico, l'atleta e il pittore. Sorride l'Italia che non fa più figli, sorride l'Italia che non ha più soldi, l'Italia invasa e sempre più incazzata. Ridiamo perché non c'è niente da ridere, ridiamo perché, perché noi siamo liberi. Ridiamo perché non ci hanno battuto, ridiamo perché chi ride ultimo ride. Ridiamo al mattino, ridiamo alla sera, ridiamo alla notte, ridiamo della morte, della vita e della morte. Se vinci ridi, se perdi ridi, se sorridi vivi di più. Chi vince ride, chi perde ride, chi sorride vive di più. Bello.